Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. New York is the thing that seduced me. New York is the thing that formed me. New York è la città che mi ha sedotta. New York è la città che mi ha formata. New York è la città che mi ha deformata. New York è la città che mi ha corrotta. New York è la città che mi ha convertita. New York è la città che amo. Questa è la mia piccola preghiera per New York. Start spreading the news. I'm leaving today. La città che non dorme mai. Così la definisce The Voice, la voce di Frank Sinatra in persona, in una delle sue più memorabili interpretazioni. Una città viva, inarrestabile come il flusso che ogni giorno l'attraversa. Una città che ti cambia la vita, almeno a dar retta a un'altra voce, quella femminile le cui parole abbiamo appena ascoltato. La sua è una preghiera accorata insieme a un tributo, un omaggio al luogo magico che ha reso possibile la realizzazione dei suoi sogni. Perché New York sa fare anche questo. E negli incroci delle sue strade che l'impensabile prende forma e l'impossibile diventa possibile. Quante persone nel corso di una manciata di secoli sono approdate a New York in cerca di fortuna? Quante sono partite dalla vecchia Europa, sbarcate sulle fredde sponde dell'Hudson e passate per i duri controlli di Ellis Island prima di arrivare in quelle strade piene di possibilità e di speranza? Quante invece, in tempi più recenti, hanno attraversato le sterminate lande americane dirette nell'unico posto dove i loro sogni potessero avere una chance di concretizzarsi? È proprio a quest'ultima categoria che appartiene la prima protagonista della nostra storia. La sua voce l'avete appena sentita. È lei che ha recitato quei versi così caldi e appassionati rivolti alla città di New York. È la voce di una poetessa contemporanea, di un'anima fragile che ha trovato la propria strada all'incrocio tra la Broadway e la Quinta Strada, tra la poesia e il rock and roll. Il suo nome è Patti Smith. Patti Smith. Quando sono arrivata a New York si poteva andare dappertutto. Ogni posto sembrava tranquillo e privo di pericoli. L'Empire State Building mi sembrava l'ago ipodermico di Dio. Era tutto così bello, tutto così pieno di infinite possibilità. L'Empire State Building. Un dito irriverente, un indice puntato al cielo quasi per sfida, come estrema e definitiva dimostrazione delle infinite possibilità dell'uomo. Dall'anno della sua inaugurazione, nel 1931, a ridosso della tremenda crisi economica che squassa l'America intera, fino all'avvento delle Torri Gemelle nel 1973, l'Empire State Building ha conservato il primato di grattacielo più alto del mondo. 42 anni di record, 42 anni passati a scrutare il mondo dall'alto e a osservare l'incessante brulicare della vita ai suoi piedi. Ed è proprio all'ombra di questo grattacielo imponente e rassicurante che una giovanissima Patti Smith fa capolino nella primavera del 1967 con pochi spiccioli, pochi vestiti e tanta voglia di combinare qualcosa. New York è il posto perfetto per lei. Patti Smith approda nelle frenetiche strade newyorkesi in un torrido lunedì dell'estate del 1967. È giovane e inesperta, due caratteristiche che possono rivelarsi un mix potente e letale in una città come quella in cui ha scelto di tentare la fortuna. Ancora non sa che di lì a poco un incontro casuale cambierà per sempre la sua vita. Per ora è sola, in balia di se stessa, alla disperata ricerca di un tetto e di un piccolo impiego che sia in grado di garantirle un po' di pane sotto ai denti. Ha scelto di privarsi degli affetti e delle pur modeste comodità della famiglia d'origine per seguire la chimera dell'arte, convinta che in essa risiedano la sua vocazione e la sua unica ragione di esistere. Facciamo un passo indietro e andiamo a conoscere più da vicino la futura poetessa del rock. Sono nata a Chicago, nel cuore dell'America. nel bel mezzo di una bufera di neve, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In una notte del gelido inverno tra il 46 e il 47, un taxi costeggia il lago Michigan arrancando in un turbinio di neve e vento. A bordo dell'auto ci sono Beverly e Grant, una cameriera e un operaio poco più che ventenni, infreddoliti e spaventati. Beverly è al nono mese di gravidanza e vorrebbe tanto che non le si fossero appena rotte le acque e che la sua bambina aspettasse ancora un po' per venire al mondo, basterebbe solo qualche ora. Quello è il penultimo giorno dell'anno e Beverly sa bene che i nati il 31 dicembre tornano a casa dall'ospedale con un frigorifero nuovo. Ma la bambina che porta in grembo è già terribilmente cocciuta e decide di fare di testa propria. È così che il 30 dicembre del 1946, con una lieve forma di broncopolmonite e senza un frigorifero nuovo, nasce l'esserino lungo e scheletrico che risponde al nome di Patricia Lee Smith. Cocciuta, testarda e precoce per natura, Patty impara a leggere ancor prima di andare all'asilo. Comincia coi libri di favole e poi inizia a divorare racconti, romanzi e perfino saggi, ossessionata dalla smania e dall'utopia di arrivare a leggere tutti i libri che siano mai stati scritti, cogliendone il significato più intimo e usando ciascuno di essi come un minuscolo ma fondamentale tassello per approdare alla conoscenza dei misteri dell'universo. Ma le velleità dell'assidua lettrice si scontrano con la realtà dei banchi di scuola. Ero una bambina sognante e sonnambula. La mia precoce capacità di lettura, unita all'incapacità di una qualunque attività pratica, faceva imbestialire i miei insegnanti. Uno dopo l'altro annotarono nelle mie pagelle quel mio fantasticare ad occhi aperti, quel mio essere sempre altrove. Patty trova conforto nei libri. Si ispira a Jo March, la ragazza maschiaccio di Piccole donne di Louise May Alcott, che nei duri anni della guerra civile si dava alla scrittura per far quadrare i conti della famiglia in difficoltà. Patty inizia a scrivere, ad intrecciare storie e racconti a beneficio di fratelli e sorelle che l'ascoltano rapiti ed estasiati. Quei grovigli di parole un giorno saranno la fonte di sostentamento esclusiva della sua anima e del suo stomaco d'artista. Per il momento però non bastano a soddisfare i suoi bisogni. A 16 anni ho trovato lavoro in una fabbrica. Patty fa i turni in una piccola ditta. Il suo compito è quello di ispezionare manubri per tricicli. Un mestiere miserabile, lontano dalle aspirazioni alte, letterarie e artistiche, di cui si nutre incessantemente la sua fantasia. La vita di provincia comincia a starle stretta, troppo. È giunto il momento di cambiare aria. È così che Patty, in un caldo mattino dell'estate del 1967, approda a New York, ai piedi dell'Empire State Building, e a un passo dai suoi sogni. Con sé ha soltanto una minuscola valigia scozzese, una copia di Illuminazioni di Arthur Rimbaud e la divisa da cameriera che sua madre le ha lasciato, pur sapendo che quello di servire ai tavoli non sarà certo il destino di Patty. Non cameriera, ma commessa in libreria. E questo è il primo impiego che riesce a trovare. Le basta a malapena per comprarsi da mangiare, di certo non per procurarsi un tetto sotto il quale riposare. Le tocca arrangiarsi come può. Eppure è proprio grazie a quella libreria di Manhattan, a quello stipendio misero e agli sguardi compassionevoli dei colleghi e dei clienti che Patty farà l'incontro più straordinario e più importante della sua vita. Quello che le cambierà ogni cosa, per sempre. Vivevo nei bagni della libreria in cui lavoravo. C'era un ragazzo che mi ronzava intorno e voleva portarmi fuori a cena. Io ero così affamata che ho accettato il suo invito, anche se non mi piaceva. Abbiamo cenato e poi io ho cominciato ad avere una brutta sensazione. Ero come pietrificata. Non potevo scappare perché non avevo un posto, una casa in cui tornare. Il mio corteggiatore voleva che salissi da lui per bere una cosa ed io ero terrorizzata dall'idea. E proprio mentre me ne stavo lì, immobilizzata, a pensare a come levarmi da quella situazione, è successa una cosa. È come se gli angeli avessero aperto un portale sulla terra ed è uscito questo ragazzo che avevo incontrato un paio di volte in libreria. Gli sono corsa incontro e gli ho chiesto tutto di un fiato: «Ti ricordi di me?» E lui: «Certo». E io gli ho chiesto: «Ti andrebbe di far finta di essere il mio ragazzo?» E lui mi fa: «Certo». Un misterioso angelo custode salva Patty dalle sue paure, fingendo di essere il suo gelosissimo e furioso fidanzato e scappando via con lei in men che non si dica. I due quella notte vagano per la città sonnambula e quasi deserta in cerca di un rifugio. Non hanno un posto dove stare, ma sanno fin dal primo istante di poter contare l'uno sull'altra. My name is Patty. Gli ho detto che mi chiamavo Patty e lui mi disse di essere Bob. Non mi sembri un Bob, posso chiamarti Robert? E da lì in poi è sempre stato Robert. Punto. Quell'angelo misterioso e affascinante, dall'andatura bizzarra e dai riccioli perennemente arruffati, piombato dal cielo per cambiare per sempre le esistenze di entrambi, si chiama Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe. And mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. Il destino ha catapultato Robert sul sentiero di Patti. Con lui condivide la passione e la vocazione per l'arte, unite al disperato e irrinunciabile bisogno di esprimere in qualche modo la propria tormentata interiorità. Da un momento all'altro, come se fosse la cosa più naturale del mondo, i due giovani restano insieme, senza più separarsi. Nella loro casa spoglia, eppure accogliente, popolata di fogli da disegno, colori a tempera, libri di poesia ed arte rinascimentale, i due coltivano l'affetto reciproco e la ferma convinzione che un giorno la loro anima di artisti si dischiuderà agli occhi del mondo. Molte cose li accomunano, eppure le rispettive storie sono partite da premesse assai diverse. Facciamo un passo indietro e andiamo a conoscere meglio Robert Mapplethorpe. Floral Park è un elegante quartiere adagiato ai confini della città di New York. Perfino il suo nome, ingentilito dal riferimento botanico, trasmette un senso di tranquillità, di pulizia, di perbenismo. È in questa realtà linda che cresce Robert Michael Mapplethorpe. Io vengo dall'America dei quartieri residenziali. Stavamo al di fuori del perimetro della città, al sicuro. Era di certo un bel posto da cui provenire, ed era anche un bel posto da cui andarsene. Robert è un bambino all'apparenza normale, come tanti altri. Un corpicino piuttosto esile, sormontato da una testa di riccioli dispettosi e da due grandi occhi blu. Eppure, al di là dell'aria da angioletto, è un vero monello la cui infanzia agiata e spensierata è continuamente scossa da fremiti causati dal suo debole per la bellezza. I suoi giovanissimi occhi immagazzinano con voracità ogni scintillio, ogni guizzo, ogni barocca manifestazione della sacralità all'interno dei riti della Chiesa Cattolica cui partecipa in qualità di chierichetto. Le tradizioni di famiglia lo imporrebbero, ma in lui non c'è alcun sentimento religioso, né mai ci sarà. È solo irrimediabilmente attratto dalla forma, da quell'aura mistica e magica, dall'antica e immutabile perfezione del rituale che si protrae identico da secoli. Crescendo, imparerà ad accorgersi che al di là della forma, nulla della sostanza del cattolicesimo lo interessa, anzi, quell'ambiente così intriso di precetti morali lontani dalla sua sensibilità non è certo il posto giusto per lui. Quel mondo non rispecchiava quello che volevo. Non succedeva nulla di eccitante. Tutto era avvolto in una calma perenne. Non potevo resistere a lungo. Robert si consola coltivando la sua ossessione estetica, assemblando e decorando spille e collane per sua madre. Non gli importa che si tratti di un lavoro da femminucce, né che il fratello maggiore, un asso dello sport, lo prenda continuamente in giro. Va avanti per la sua strada, progettando accuratamente la fuga da una realtà familiare soffocante, intossicata dagli schemi e dal peso delle aspettative paterne. Appena ho potuto, verso i 16 anni, ho cominciato a frequentare una scuola d'arte e mi sono trasferito a Brooklyn. Robert abbandona il sentiero cattolico e il brillante futuro lavorativo sognati per lui dai genitori. Sceglie la via mistica dell'LSD e abbraccia la filosofia di una vita in funzione dell'arte. Essa sarà il suo credo, la sua religione, la sua unica ragione d'esistere. Ha solo bisogno di trovare qualcuno che, come lui, sia disposto ad abbandonarsi a questa stessa fede incrollabile. Qualcuno che a sua volta abbia bisogno di una spalla e di una guida, di un amico e di un compagno. Qualcuno come Patti Smith. È lui che mi ha aiutato ad acquisire sicurezza in me stessa, già da quando eravamo giovani. Ci siamo conosciuti che avevamo 19 anni. È grazie a lui che ho sviluppato un'autoconsapevolezza artistica, la coscienza di essere un artista. È sempre stata una cosa importantissima questa per Robert. Non eravamo apprendisti, né studenti d'arte. Eravamo artisti. È l'estate del 1967, l'estate in cui muore il jazzista John Coltrane, l'estate dei figli dei fiori che guardano impotenti la Cina esplodere l'atomica e il Parlamento inglese condannare l'omosessualità. È l'estate in cui Jimi Hendrix dà fuoco alla sua chitarra al Festival di Monterey, in California. In quell'atmosfera così sfuggente, l'incontro tra Patti Smith e Robert Mapplethorpe sembra preannunciare enormi cambiamenti. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. Destini incrociati immortala l'incontro tra due artisti, due personalità che cambieranno molte cose, oltre ai rispettivi destini. Patti Smith e Robert Mapplethorpe imprimeranno una svolta epocale nella percezione del suono e dell'immagine. Nulla di tutto questo sarebbe possibile se i due futuri pionieri dell'arte non si fossero imbattuti per caso, l'uno nell'altra. Nel 1967 me ne andai a New York City e lì incontrai Robert Mapplethorpe. La ventenne Patti Smith è fuggita dalla tetra realtà della provincia fatta di fabbriche e desolazione. Un ambiente sterile e deprimente, in cui le sue passioni letterarie e artistiche non possono certo trovare una valvola di sfogo. In provincia non c'era spazio per crescere. Non c'era posto per essere creati né per essere distrutti. Si viveva e basta. Il che va bene per certa gente, ma io ho sempre sentito qualcosa di diverso fremere in me. Ed è per questo che sono venuta qui. Sapevo di avere qualcosa dentro che poteva sbocciare. Forse questo qualcosa mi avrebbe distrutta, mi avrebbe fatta sentire uno schifo, ma almeno sarebbe venuto fuori, mentre altrove l'avrei soffocato. Solo qui quel qualcosa poteva emergere. New York è il teatro della presa di coscienza, dell'emersione del talento multiforme di Patti. Vivere insieme a Robert Mapplethorpe significa condividerne le ossessioni e i metodi, significa restare alzata notti intere, china su un tavolo a disegnare, trafficare coi pennelli, esaminare fotografie o fantasiose composizioni scultoree. Di giorno si lavora per sfamare la bocca, di notte per sfamare l'intelletto. La vita non è semplice. Gli impieghi precari fanno sì che fame e difficoltà siano sempre in agguato. Ma Patti e Robert sono finalmente liberi. Lei dal giogo del grigiore della fabbrica, lui dai retaggi della soffocante morale cattolica imposta dai genitori. Del resto, New York, tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, è il luogo che ha liberato infinite esistenze e dischiuso infinite possibilità. Una delle cose per cui mi sento più fortunato è che ho vissuto il fermento di quegli anni. Prima dei 60, quando ero studente, e poi tutti i cambiamenti che sono seguiti. Sono stato fortunato perché mi trovavo qui, a New York. In quegli anni di fermento, di contestazioni e fervore di cambiamento, Patti e Robert si trovano nel luogo ideale, nel centro propulsore di tutta l'energia che sta rimescolando la cultura occidentale. Hanno molte idee, ma pochi soldi, davvero troppo pochi per condurre una vita dignitosa. Patti spende i suoi pochissimi risparmi per acquistare libri d'arte e un biglietto aereo per Parigi. La città in cui tanti poeti e artisti prima di lei hanno trovato ispirazione, conforto, comprensione. Robert, durante l'assenza di Patti, si lancia in una stagione all'insegna delle sperimentazioni più sfrenate in campo artistico e sessuale. Ha bisogno di trovare il suo io, di comprendere quale sia la sua vera identità. Al ritorno di Patti dalla Francia, Robert è stremato. L'assenza della sua unica compagna e confidente, unita alle folli sperimentazioni, ha indebolito la sua giovane tempra di ragazzo. Né lui né Patti hanno più una casa né un lavoro stabile. Ma in fondo non importa. Sono artisti nudi di fronte alla ribalta del mondo, forti della loro interiorità complessa e del loro incommensurabile talento. In qualche modo riusciranno a sopravvivere, a patto di restare uniti. Chosen machine. I go and I don't know why. I spin so ceaselessly. Maybe he's taken over me. Restare insieme per Patti e Robert è l'unico modo di sopravvivere in una fase così delicata di mutamento. Dove li condurrà tutto quel travaglio? Che ne sarà di loro? Vale davvero la pena di continuare a vivere inseguendo la chimera dell'arte e sperando un giorno di potersi mantenere grazie ad essa? Entrambi sono convinti che quella sia la strada giusta. Insieme si trasferiscono a vivere al Chelsea Hotel, storico albergo newyorkese situato al numero 222 della 23esima strada, vitale e bizzarro crocevia che ha visto camminare nei suoi corridoi personalità del calibro di Jack Kerouac, Bob Dylan, Charles Bukowski, Janis Joplin, tanto per citarne alcuni. Patty e Robert traslocano nella stanza 1017 nel tardo 1969. Un anno prima, in una di quelle stesse camere anguste e trasudanti energia creativa, Arthur C. Clarke finiva di scrivere il suo 2001 Odissea nello spazio. Tutto quel fervore creativo non può che contagiare i nuovi inquilini. È proprio tra queste mura che Robert scopre una nuova passione, quella per la fotografia. All'inizio ero ingenuo, nel senso che avevo questa macchina Polaroid e scattavo senza tante domande. Eppure credo che quelle foto primitive avessero già la consistenza di quello che faccio oggi. Ho perfezionato il mio lavoro nel corso degli anni, certo, ma credo che fosse già tutto lì, dal principio. Già dalle prime Polaroid ero interessato al tema della sessualità e al ritratto, e la mia modella dell'epoca era Patti Smith, perché vivevamo insieme. Credo che i miei primissimi ritratti siano proprio suoi. Patti è una modella perfetta. Capelli nerissimi, viso spigoloso dai tratti fieri e marcati, corpo esile e vagamente androgino. Un soggetto ideale per gli scatti fugaci o in bianco e nero che piacciono tanto a Robert. Il Chelsea Hotel, quell'albergo magico, eccentrico e maledetto, oltre all'espressione artistica di Robert, benedice anche quella di Patti. Ed è proprio a partire da un piccolo regalo di compleanno che prende il via una delle carriere più brillanti e fulminanti dell'intera storia del rock and roll. Robert mi regalò un tamburello per il mio 21esimo compleanno. Ci tengo molto. Quel tamburello è molto più di un semplice strumento a percussione. Esso rappresenta il primo passo di avvicinamento tra Patti e l'universo della musica. Non che non le fosse mai interessata, anzi, fin da ragazzina è un'avida ascoltatrice, capace di spaziare dalle voci aggraziate di Maria Callas e Billie Holiday alla ruvidezza di Mick Jagger, passando per le derive psichedeliche dei Doors e dei Jefferson Airplane. Ma qui si tratta di fare musica, non semplicemente di sentirla. E in questo suo strano processo di formazione musicale c'è un altro evento che si colloca come fondante: l'arrivo del tutto inaspettato della sua primissima chitarra. Questa è una bella chitarra. Credo che sia una Gibson del 1931, un modello venuto direttamente dalla Grande Depressione. Sam Shepard me l'ha regalata nel 1971 ed io l'ho chiamata Bo. Mi sono comprata un libro di canzoni di Bob Dylan e ho imparato un paio di sue canzoni, solo canzoni che potessi suonare con 5 accordi, come questa, ad esempio. Where you been, my blue-eyed son? No. Where you been, my blue-eyed son? All'inizio non è semplice prendere confidenza con lo strumento, ma Patti compensa la sua mancanza di tecnica con la passione e l'inventiva. Quello che conta di più per lei è sperimentare, cercando pian piano di mettere in musica quello che le è sempre venuto naturale buttar giù sotto forma di versi. Le sue poesie, popolate di accenti lirici e densi aforismi, a poco si trasformano in canzoni. Al resto, alla componente più prettamente pratica, ci pensa qualcun altro. Vivevo al Chelsea Hotel e aspettavo di incontrare dei musicisti. Poi gli chiedevo se volevano vedere una chitarra davvero forte. Loro dicevano che era veramente bella e io gli chiedevo se gli andava di suonarla un po'. Per prima cosa loro ovviamente la accordavano e io così avevo sempre la mia chitarra accordata. Forse non saprà accordare uno strumento, ma di certo Patti sa cantare. Robert non ha mai perso occasione di dirle di esercitare la voce. Ogni volta che lei distrattamente se ne va in giro canticchiando vecchie canzoni di Edith Piaf, lui le ripete di coltivare l'idea del canto. Non per nulla il suo mentore e il suo primo sponsor, la prima persona che abbia mai scorto in lei i chiari segni del fuoco artistico. Patti ancora non lo sa, ma il suo destino come performer e cantante è già irrimediabilmente tracciato. Destini incrociati. Destini incrociati è all'inizio degli anni 70. sta seguendo lo sbocciare delle carriere di due personalità fondamentali nel panorama culturale della seconda metà del Novecento. Sono un uomo e una donna, sono stati amanti, amici, confidenti, ma soprattutto sono stati l'uno indispensabile spalla dell'altra. Lui è Robert Mapplethorpe, il fotografo che con la forza delle sue immagini in bianco e nero è riuscito a conquistare i palati più difficili e a cambiare la percezione di certi tabù. Lei è Patti Smith, la poetessa del rock and roll. Life isn't some vertical or horizontal line. La vita non è una linea verticale o orizzontale. Ognuno di noi ha un suo mondo interiore che non è lineare. Da qui deriva l'importanza della bellezza della musica, dei suoni, dei rumori. Quando esci per strada, senti il rumore del traffico, della gente che parla, bimbi che ridono, uccelli che cinguettano, il baccano di uno stereo portatile, centinaia di suoni diversi. Tutte queste cose sono potenzialmente belle. La fascinazione dei suoni, che è sempre stata un elemento importante ma complementare, improvvisamente diventa il fulcro del lavoro di Patti. Si tratta di tramutare in suono tutto ciò che fino a quel momento è stato segno grafico, disegno, inchiostro su una pagina. Non importa se tracciato a mano o battuto con la macchina per scrivere. Ho sempre avuto l'idea di diventare un artista, una poetessa. E perseguendo questo obiettivo, ho trovato il mio ritmo e la nota fondamentale della mia voce, stando in piedi davanti a grandi fogli di carta attaccati al muro che recitavano Sylvia Plath, Rachel Lindsay e Oscar Brown Jr. Frustrata dalle immagini, iniziai a tracciare parole al loro posto. Parole e versi al posto dei disegni, prima recitati e poi cantati. Il destino di Patti come rocker, infatti, non inizia in maniera del tutto canonica. Prima di essere paladina del rock, la Smith è innanzitutto poeta e performer. Non parte dalla musica pura, ma dalla recitazione sentita e ritmica delle proprie poesie ad alta voce, accompagnata da un sottofondo musicale. E non è difficile credere che i membri della band che l'accompagnano nelle sue prime apparizioni pubbliche sognino fin dal primo istante di trasformare in vere e proprie canzoni quei versi così densi di significato. Ho affinato sempre di più questo procedimento finché non sono arrivata alla collaborazione, a suonare davvero in una rock and roll band. Se all'inizio si fa soltanto accompagnare dal gruppo concentrandosi sulla recitazione e sul canto dei suoi versi, in un secondo momento l'amore per la sua vecchia Gibson del 1931 prende il sopravvento. Non le basta più recitare, ma vuole essere parte viva e attiva del procedimento artistico. Un procedimento che in ogni caso prevede sempre la presenza, in un ruolo o nell'altro, del suo angelo custode Robert Mapplethorpe. Negli anni successivi mi sono messa a studiare e ci ho dato dentro con la vecchia Gibson. Lavoravo in libreria, disegnavo, posavo per Robert, scarabocchiavo sui miei taccuini. Anche nel momento in cui le rispettive carriere sono sul punto di spiccare il volo, mantengono fede alla promessa fatta qualche anno prima. Resteranno idealmente uniti, anche quando saranno distanti. La notte delle loro vite è quasi finita. In arrivo c'è l'alba del successo. E sono pronti ad affrontarla ciascuno a modo proprio, sapendo di poter contare sempre l'uno sull'altra. È il 1975, quando Patti e la sua neonata rock band pubblicano il loro primo disco dal titolo Horses. Chi meglio di Robert Mapplethorpe può occuparsi di scattare la foto di copertina? Patti è sempre stata una delle sue modelle predilette. Mi è sempre piaciuto essere fotografata. Fin da quando ero bambina mi mettevo in posa perché immaginavo che qualcuno mi catturasse segretamente con l'obiettivo. A 16 anni, quando prendevo il treno, facevo finta che al di là del finestrino ci fosse una macchina da presa o che dal cielo uno dei santi stesse girando un film e facesse uno zoom su di me. Quella di Horses è una copertina che è entrata nella storia dell'immagine, oltre che in quella del rock and roll. un mezzo busto di Patti Smith in bianco e nero, camicia candida, pantaloni scuri e bretelle sottili, una giacca appoggiata con fare distratto su una spalla. Semplice e diretta, spoglia come l'approccio sincero e senza fronzoli della sua protagonista. Quello di Patti è un rock fatto sì di testi lirici e complessi, ma suonato con l'energia e la schiettezza di una performance live, nell'intento di inondare di sensazioni il suo pubblico e lasciarlo attonito, quasi disorientato. In quella copertina, in quella foto, è racchiuso tutto il legame di Patti con Robert. Una foto luminosa, come il futuro che in quel 1975 sembra star lì ad aspettare entrambi. Robert non è mai stato autodistruttivo. Certamente era uno che amava le sperimentazioni, ma non certo l'autodistruzione. Non era mai amareggiato, ma sempre estremamente ottimista. Sperimentatore, pronto a lanciarsi nel torbido dell'underground newyorkese e a riemergerne carico di nuova energia creativa. Amante dei ritratti, delle nature morte e delle nudità sia femminili che maschili, anche portate alle estreme conseguenze. Solo Robert Mapplethorpe riesce a immortalare con la stessa freschezza un giglio e una scena di sesso. Solo lui riesce a sconvolgere i critici. Robert Mapplethorpe è il fotografo più controverso d'America. I suoi ritratti di gente ricca e famosa hanno scosso il panorama della cultura e del lifestyle newyorkese con una ventata di ingegno e di oggettività. È uno dei rari talenti che è stato in grado di immortalare con candore e semplicità il mondo omosessuale newyorkese tra la fine degli anni 60 e i 70. I suoi lavori hanno trasformato il volto della fotografia di moda, imprimendole una svolta epocale. Un cambiamento epocale nella storia della fotografia che non sarebbe mai avvenuto se il destino di Robert non si fosse incrociato con quello di Patti Smith, compagna di un bel tratto di strada e convinta assertrice della necessità di perseguire la via dell'arte a tutti i costi. La vita è un'avventura che ci costruiamo noi stessi, con la partecipazione del fato e di una serie di casualità fortunate o sfortunate. Fortunata certamente è stata l'unione dei loro talenti, ma la sfortuna non ha dimenticato di pretendere la sua parte di bottino. A metà degli anni Ottanta a Robert viene diagnosticato l'AIDS, quasi un beffardo sigillo delle sue intemperanze e sperimentazioni giovanili. Muore nel 1989, quando Patti è lontana e all'apice della sua carriera, ma anche in quel momento il destino trova il modo di riunirli. Appena ricevuta la terribile notizia della scomparsa dell'amico, Patti accende la radio e sente un'aria struggente. Si tratta della Tosca di Giacomo Puccini. Sono parole talmente belle queste che canta Maria Callas. Vissi d'arte, vissi d'amore. Io credo che sia stata la provvidenza a decidere cosa avrei dovuto ascoltare in quel momento, alla notizia della morte di Robert. Ed era proprio quell'aria. Vissi d'arte, vissi d'amore. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.